البلاد طردوا الأجداد. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا لنا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا بنرجعها. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا لنا قانون دولي. Buongiorno Palestina. L'incontro di oggi è con Raffaele Spiga, che è stato uno dei principali promotori del movimento BDS in Italia. Ricordiamo che BDS sta per boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro l'occupazione e l'apartheid israeliana. Si tratta di un movimento internazionale in cui convergono in Italia associazioni e gruppi che hanno aderito all'appello della società civile palestinese lanciato nel 2005, che ha dato luogo a diverse azioni. Scioperi e picchetti in fabbriche che lavorano per la produzione di armi israeliane, boicottaggio di prodotti israeliani alimentari e non solo, nei supermercati, in farmacie e altri negozi, acquisti sostitutivi di prodotti, campagne per il bando di prodotti israeliani forniti dagli insediamenti coloniali illegali. Il movimento BDS sostiene la parità di diritti per tutte e tutti e costituisce una forma di lotta non violenta contro ogni forma di razzismo, fascismo, sessismo, antisemitismo, islamofobia, discriminazione etnica e religiosa. Sempre per BDS ricordiamo infine una notizia di attualità. La campagna Boycott Puma, in quanto Puma fornisce le scarpe per le squadre di calcio israeliane, anche quelle degli insediamenti illegali. Questa campagna di boicottaggio sta avendo notevole successo e affronta in questa settimana una fase decisiva in vista dell'assemblea degli azionisti di Puma. Le azioni da intraprendere per il boicottaggio le troverete sul blog di Wombat nella pagina odierna di Buongiorno Palestina. Ad intervistare Raffaele Spiga sarà Leo, che nel 2005 a Firenze partecipò all'organizzazione di una visita di Omar Barghouti, l'ideatore palestinese del BDS, e nel 2012 organizzò la campagna contro i prodotti SodaStream nei supermercati Coop. Lo incontreremo subito dopo il notiziario della settimana. Notizie sulla Palestina, ultima settimana di aprile. Israele, si parla del Partito Laburista israeliano. Dopo che ha fatto l'accordo con Netanyahu, il partito che ha fondato Israele ora è praticamente morto. Così il commento di Haaretz tradotto sul sito di Assopace Palestina. Gaza, niente tregua negli attacchi israeliani ai pescatori di Gaza. Questi attacchi vengono elencati con i dati precisi sul sito di Invicta Palestina. Detenuti, Israele emette un nuovo ordine militare per punire qualsiasi soggetto che si occupi di detenuti palestinesi, banche comprese. Lo denuncia la Prisoners Association. Questo ordine militare entrerà in vigore il 9 maggio. Ordini di demolizione contro 22 case e strutture agricole palestinesi. Questo in un villaggio del distretto di Salfit nella Cisgiordania. Raffica di attacchi dei coloni israeliani, lo denuncia Michele Giorgio sul manifesto del 28 aprile. Entrano nei villaggi palestinesi, tagliano alberi, danneggiano automobili, vandalizzano proprietà e l'esercito sta a guardare, oppure se la prende con le vittime. Lo denuncia B'Tselem, Associazione per i diritti umani israeliana. Confiscare 150 milioni di dollari di fondi palestinesi al fine di risarcire i danni alle famiglie israeliane per persone uccise in presunti attacchi palestinesi nel corso della seconda intifada. Questa è la decisione presa venerdì 24 da un tribunale israeliano. Cioè non solo gli rubano la terra, poi vogliono anche batter cassa. Annessione della Cisgiordania. Interrogazione al Ministero degli Esteri italiano da parte di 12 parlamentari italiani. Iniziatore è l'onorevole Cabras, Movimento 5 Stelle. Vi hanno contribuito alla stesura della interrogazione Paolo Pezzati di Oxfam e Luisa Morgantini. L'interrogazione è vigorosa, documentata, precisa, dice le cose come stanno. I 12 deputati che l'hanno sottoscritta sono 6 del Movimento 5 Stelle, 4 del PD, 2 di LeU. Ancora sulla annessione della Cisgiordania, l'Unione Europea. Di questo ne parlano due articoli, uno su Electronic Intifada e Chiara Crociati, poi sul manifesto del 1º maggio. Il responsabile della politica estera europea, Josep Borrell, spagnolo, ha ribadito la posizione della UE, secondo cui qualsiasi annessione costituirebbe una grave violazione del diritto internazionale. E inoltre, l'Unione Europea continuerà a monitorare attentamente la situazione e le sue più ampie implicazioni e agirà di conseguenza. Vedremo, speriamo. Sarebbe ora. Congresso ebraico europeo ha pubblicato un nuovo rapporto sull'antisemitismo. Il rapporto è redatto in collaborazione con ricercatori dell'Università di Tel Aviv. Parla di neonazismo crescente, ma poi alla fine è con il BDS che se la prende. Il BDS è menzionato non meno di 2 dozzine di volte nel documento che è di 17 pagine. Il rapporto definisce come risultati significativi per la lotta all'antisemitismo nel 2019 i voti dei parlamenti tedesco e austriaco che descrivono l'attivismo BDS come fanatismo antiebraico. Tanto per cambiare. Il rapporto si collega ad una serie di rapporti dell'iniziativa AMSHA. Questa AMSHA è un'organizzazione filo-israeliana di estrema destra, con una lunga storia di spionaggio e molestie verso studenti e insegnanti, soprattutto negli Stati Uniti. Viene poi elogiata la coordinatrice dell'Unione Europea sull'antisemitismo, Katharina von Schnurbein, che è una che mantiene uno stretto rapporto con la lobby israeliana e che ce l'ha a morte con il BDS. Minacce all'imam della spianata delle moschee a Gerusalemme e diritto di preghiera degli ebrei sulla spianata. David Sheen, che è un giornalista israeliano ebreo di Haifa, che conosciamo bene perché venne anche a Firenze un anno fa, spiega come di diritto di preghiera degli ebrei questa sia non solamente una cosa pia, ma sia in realtà il grimaldello per negare invece ogni presenza palestinese, anche religiosa, sulla spianata delle moschee. Sheen lo spiega molto bene, illustrando il ruolo e la carriera di Ben Yosef, un americano israeliano, autore di diversi attentati e sospettato killer di Alex Odeh, dirigente dell'OLP in America, ucciso nel 1985. Sheen racconta l'effetto politico delle trame di Joseph, tra cui quella di far saltare in aria la cupola della roccia per edificarvi un tempio ebraico al suo posto. La pandemia in Cisgiordania e a Gaza, circa 53.000 famiglie palestinesi sono finite al di sotto della soglia di povertà dall'inizio della pandemia. Il numero totale di famiglie che al momento vivono in povertà ammonta a 115.000. Dei 180.000 palestinesi che lavoravano in Israele, circa 150.000 si sono messi in quarantena volontaria e l'autorità palestinese instaurerà presto un fondo per fornire mensilmente qualche assistenza finanziaria a coloro che non possono più lavorare. Ma le risorse, comprese quelle dell'UNRWA, sono veramente molto scarse. Le notizie che ho citato qui, per poco più che per titoli, Le trovate invece per esteso negli articoli sui siti di Associazione di Amicizia Italo-Palestinese, Assopace Palestina, Nena News, Infopal, Invicta Palestina. Prima di concludere, una notizia positiva. È stato approvato il ventilatore polmonare meccanico dell'Università di Al-Quds, progettato e realizzato da ingegneri palestinesi. Il rettore dell'università ha annunciato che l'istituzione inizierà immediatamente il processo di produzione e produrrà 100 unità per consegnarli a ospedali e centri di trattamento palestinesi per il trattamento del Covid-19. E con questa positiva notizia concludiamo oggi il nostro notiziario. Ora un breve intervallo musicale con la meravigliosa voce di Feroz in Li Beirut. Dopodiché passeremo all'intervista di Leo a Raffaele Spiga. Li Beirut, min qalbi salamun li Beirut, wa qubalun lil bahr wal buyut, li sakhratin ka'annaha. وجه بحار قديم هي من روح الشعب خمر هي من عرقه خبز وياسمين فكيف صار طعم نار ودخان لبيروت Qui c'è Radio Bombat. Noi ogni mercoledì trasmettiamo le notizie sulla Palestina. E noi qui a Firenze ci occupiamo della Palestina da tantissimo tempo, almeno dal sì, 2002. Vi conosco. E abbiamo anche noi fatto iniziative per il BDS, per i nostri ascoltatori, ormai loro sanno cosa è il BDS, boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro Israele, uno strumento nel frattempo possiamo dire temuto, molto temuto da Israele e qualcuno naturalmente ci attacca. Noi a Firenze abbiamo fatto cose piccole, non in grandi, ma devo ricordare anche i nostri ascoltatori nel 2005. E abbiamo iniziato, è venuto Omar Barghouti, il fondatore del BDS palestinese, poi nel 2012 per esempio abbiamo fatto un'iniziativa contro la Coop per la vendita di Soda Stream, questi gasatori, i nostri ascoltatori, quelli che vogliono l'acqua gasata. Raffaele. Sì. Tu sei una, che posso dire, delle colonne del BDS nazionali e nonché coordinatore del BDS di Bologna. Da quando, Raffaele, tu ti occupi della Palestina e soprattutto da quando ti occupi del BDS? Sì, io sono un attivista, come tanti altri, di questo movimento non violento che si ispira alla lotta che si fece negli anni Ottanta contro l'apartheid nel Sudafrica, perché vi sono delle evidenti analogie tra quella situazione allora e quella attuale in Israele. Nel 2004 ho iniziato a lavorare in Palestina e ho lavorato fino al 2012, quindi un tempo abbastanza lungo, e in quegli anni stava cominciando anche la proposta del BDS, che iniziò nel 2004 con il boicottaggio culturale avviato proprio da Omar Barghouti, che tra l'altro è uno scenografo, un ex ballerino, per cui partì proprio dal suo vissuto, e poi si estese ad altre realtà, fino a quando nel 2005 ci fu questa proposta di tantissime organizzazioni palestinesi al mondo intero, a tutte le organizzazioni della società civile, perché fossero fatte pressioni su Israele dall'esterno, visto che dall'interno ormai si poteva fare molto poco, e per obbligare Israele ad aderire al diritto internazionale e di conformarsi a questo. Quindi io l'ho visto un po' nascere il movimento BDS. Quando sono rientrato in Italia, ho pensato che fosse mio dovere morale continuare questa iniziativa, e quindi mi sono impegnato di più in questa attività che, come tutti sanno, è diventata molto efficace e molto diffusa. Nel mondo sono migliaia e migliaia gli attivisti che aderiscono a questa proposta, e la cosa più interessante e più bella anche per noi è che vi aderiscono tante organizzazioni anche di ebrei e democratici, che contestano la politica di Israele e il colonialismo di insediamento che Israele sta attuando nei confronti della Palestina. Questa brevemente è la mia, diciamo, storia di attivista. Adesso sono in pensione, quindi ho ancora più tempo e dedico quello che posso, le mie energie, anche per questa iniziativa. Molto bene, Raffaele. E puoi spiegare ai nostri ascoltatori qual è la situazione attuale in Palestina, soprattutto la situazione coronavirus e naturalmente la vita Sì, insomma, trovata ma delle persone? le informazioni che arrivano sono abbastanza poche sui media ufficiali, perché ormai tutti si occupano solo del proprio orticello o di quello che succede nell'orto del vicino, ma le questioni internazionali sono state messe un po' in disparte, mi pare. Le notizie che arrivano dalla Palestina sono molto preoccupanti, anche se fortunatamente la diffusione della pandemia per ora è stata mantenuta sotto controllo, e forse anche, questo è un paradosso, per quanto riguarda Gaza, la chiusura che Israele impone a Gaza ha fermato anche il passaggio di tante persone che potevano essere potenzialmente dei portatori di questa malattia. E attualmente in Israele risultano, dati di ieri sera, 7.386 contagiati e 215 deceduti, mentre nei territori palestinesi occupati, compresa quindi Gaza, Gerusalemme Est e la West Bank, sono solo, fra virgolette, 500, e i deceduti sarebbero solo due. Quindi non siamo sicuri di questi dati, perché purtroppo la sanità palestinese è veramente disastrata, per cui, come sappiamo, se non vengono effettuati i test non vengono neanche diagnosticate certe i malati, per cui magari i dati poi possono essere anche molto superiori. E la cosa molto grave è che Israele, naturalmente sottraendosi ai propri doveri di potere occupante, quelli previsti ad esempio Quarta Convenzione di Ginevra del 1949, in particolare l'articolo 56, mi sono documentato, prevede una serie di obblighi per il paese occupante nei confronti degli occupati, anche per la tutela della salute. Israele non si Non riconosce fa. come paese occupante e quindi se ne lava le mani, ma non solo. Ha attuato una serie di misure, oppure neanche non attuate altre, che sarebbero fondamentali per la tutela della salute anche dei palestinesi, mentre invece le ha attuate solo per la popolazione ebraica, sia nei territori occupati, sia Gerusalemme Est e anche in Israele, quella che è, diciamo, l'Israele del 48. Ho Per capito. cui, ad esempio, all'inizio dell'insorgere di questo morbo, Israele non ha pubblicato le linee guida contro il coronavirus, le linee di comportamento in lingua araba, Immagino. ma solo in ebraico. Quindi già qui dimostrando, tra l'altro, la lingua araba fino al 2018 era seconda lingua ufficiale anche di Israele, poi adesso è stata invece declassata a lingua locale. Le comunità palestinesi in Israele rischiano di diventare dei focolai e degli epicentri dell'epidemia a causa della carenza di test, perché soprattutto nelle parti arabi non vengono fatti controlli. Nei carceri la situazione è disastrosa, lo era già prima e attualmente non c'è nessuna protezione adeguata dei 5.000 prigionieri politici. Tra l'altro, ho visto un dato ieri in cui dal 1 gennaio a ora sono addirittura aumentati gli arresti dei minori e in questo momento sono 194 minori sono stati arrestati in questi ultimi mesi, quindi un aumento addirittura del 6%. E, di questi 194 minori, 117 sono in custodia preventiva, cioè non vengono neanche accusati di nessun reato, ma sono mantenuti dentro. D'altra parte, i tribunali militari così, che condannano, che giudicano, ma quasi sempre condannano, perché il tasso di condanna dei tribunali israeliani nei confronti dei prigionieri palestinesi è del 99,7%. Quindi veramente Ho capito, una Raffaele. giustizia così, proprio un po' su misura. E così via. Io potrei proseguire perché anche altri esempi. In questi giorni si approfittano della disattenzione internazionale per aumentare la repressione, cioè per cui gli episodi dei coloni che abbattono alberi, che fanno danni, che incendiano automobili palestinesi sono in crescita esponenziale. Ma l'ultima Sputtana cosa. addirittura, vero? Che sputtana Sì, addirittura i addirittura bambini che vogliono quasi attaccare Sì, le poi. cose incredibili. Esatto, poi c'è questo ricatto nei confronti dei lavoratori palestinesi che lavorano in Israele, per cui se rientrano in Palestina non possono più tornare a lavorare e quindi sono Sì, obbligati a rimanere in situazione. Israele in forma precaria, in appartamenti, in posti di fortuna e così via. L'ultima cosa che voglio dire è la propaganda che viene fatta non solamente da Israele, purtroppo, ma anche da molti altri, approfittando di questo coronavirus. In particolare, io sottolineo due casi. Allora, in febbraio l'azienda israeliana Migal, e questo l'ho letto sul Corriere della Sera, il Migal Research Institute, diceva che era un passo per il vaccino del Covid-19. La notizia naturalmente è un falso perché, come tutti sanno, per fare un vaccino occorrono parecchi mesi, minimo 12 mesi, e quindi non è possibile materialmente. Aspetta che ho una telefonata, chiedo scusa, la spengo. Pronto? Sì, Ecco, scusa, eh. Raffaele, grazie. Senti, Sì. volevamo anche sapere che cosa sta facendo il BDS nazionale, che è molto organizzato, e attualmente quali iniziative ci sono, quali campagne. È appena passato il 25 aprile, se anche voi come noi Sì. avete fatto un legame con la resistenza, insomma, Assolutamente, sì. la resistenza attuale. Allora, quali sono iniziative attuali del PDS? Allora, per il 25 aprile noi da tempo aderiamo alle manifestazioni che vengono celebrate in Italia, non per formalità, non giusto per il gusto della celebrazione, ma perché pensiamo che la resistenza italiana al nazifascismo e la resistenza dei palestinesi al sionismo siano molto analoghe, vi siano delle analogie assolutamente stringenti, per cui noi crediamo negli ideali della resistenza, di libertà e di eguaglianza e quindi chiediamo la stessa cosa anche, e chiediamo anche che i palestinesi possano partecipare, perché è stata contestata la partecipazione dei palestinesi, ad esempio a Roma, all'iniziativa dell'ANPI dell'anno scorso, per cui la comunità ebraica romana poi non aderì alla manifestazione. Quindi la situazione è un po' eterogenea, perché a Milano c'è l'opposto, a Milano è capitato invece che l'ambasciata israeliana ha chiesto alle autorità locali di non far partecipare i rappresentanti del BDS e dei palestinesi alla manifestazione del 25 aprile. Quindi c'è un po' così, si stanno un po' tirando da una parte e dall'altra. Però noi crediamo fermamente in questo discorso, per cui tra l'altro noi rivendichiamo anche il diritto costituzionalmente garantito alla libertà di parola ed espressione, che è uno dei fondamenti della Costituzione italiana, a cui poi Sicuramente. comunque ci rifacciamo, ecco. E per cui per noi è un po' un'offesa vedere che vengano sventolate bandiere israeliane che inneggiano il sionismo durante le manifestazioni del 25 aprile, perché sono rappresentanti di un'ideologia razzista che sta alla base di politiche di colonialismo, occupazione e apartheid. E quindi ci sembra una contraddizione. Nessuno toglie i meriti grandi o piccoli della Brigata Ebraica che partecipò a questa cosa, però non vediamo perché altri non vi siano invitati. La Brigata Ebraica, per inciso, ebbe 35 caduti in due battaglie che si fecero in Romagna, e mentre se uno, nessuno ricorda che la Brigata Maori della Nuova Zelanda ne ebbe 3.500 di caduti. Per cui o tutti o nessuno, cioè chiediamo la Allora, partecipazione di tante forze, non una selezione. appunto, Raffaele, e poi non viene presentato, solo in rari casi, la bandiera della Brigata Ebraica, ma la bandiera israeliana, che è un'altra Appunto, cosa, sì, è quello. assolutamente. Allora, ti ringrazio, Raffaele, per questa prima parte e poi riprendiamo. Grazie. Va bene, grazie a voi. Ora un breve intervallo musicale con Palestine, la musica dell'Intifada 1989. أي فيك البسالي والكفاح والعين سهراني بعيون الجنود أطفال نار الشرمال يا بلادي العود قريبي والانتفاضة شعالي Thank you. جبل النار من غز الشعل الحمراء من غار الغار يا شعبي ضلك ساير من جبل النار من غز الشعل الحمراء من غار الغار مخيم لمخيم جسر الثوار أطفال الأرض السمراء ورد وأزهار من مخيم لمخيم جسر الثوار أطفال الأرض السمراء ورد وأزهار Bene, Raffaele, allora continuiamo con il nostro discorso sul BDS. Sì. Allora, quali sono le attività, le iniziative attuali del BDS? Puoi parlare anche tranquillamente per i nostri ascoltatori del successo che abbiamo avuto, no? Con alcune campagne. Certo, certo. Chiaro che noi sottolineiamo i successi come tutti, però credo che la crescita del movimento BDS sia incontestabile, e tanto è vero che Israele sta spendendo delle cifre esagerate per contrastare il BDS, ha equiparato il pericolo, tra virgolette, del BDS per Israele a quello dell'Iran, per cui forse esagerando un po', però diciamo che ci tengono molto. Ci sentiamo gratificati. Esatto, ci tengono in considerazione. Allora, come forse non tutti sanno, il movimento BDS lavora su campagne che sono di boicottaggio o di sensibilizzazione degli organismi politici perché attuino anche azioni di disinvestimento per quanto riguarda le aziende o di sanzioni per quanto riguarda invece le organizzazioni politiche, per cui vi sono campagne di boicottaggio, ad esempio ne cito quelle più attuali, che sono ad esempio la campagna che noi chiamiamo SPLAI, cioè che sono spazi liberi dall'apartheid israeliana. In pratica stiamo creando una rete europea di realtà che sono sia fisiche ma anche possono essere anche associazioni o gruppi che si definiscono come liberi dall'apartheid e quindi seguono alcune linee guida che sono quelle di evitare di commercializzare prodotti israeliani, ad esempio, o di collaborare a iniziative culturali che siano appoggiate dalla ambasciata israeliana o dal governo israeliano, oppure comunque si impegnano a essere attivi per quanto riguarda i diritti dei palestinesi e in generale un po' anche di tutte le popolazioni interessate. Chiedo scusa. Attualmente abbiamo già superato la soglia delle 200 adesioni in Italia di realtà completamente differenti tra loro, che vanno dal negozio sotto casa fino al circolo Arci, piuttosto che l'associazione per i diritti dei migranti e così via. Quindi in Italia sono già 200, in Europa siamo già a oltre 600 realtà, e credo che la cosa stia marciando molto velocemente, perché vediamo che è un'iniziativa che è sentita e che è accolta, diciamo, benevolmente da molte persone, anche singoli e anche associazioni. L'altra grande campagna internazionale che si fa ormai da un po' di tempo, ma che in Italia ha ripreso forza in questi ultimi periodi, in questi ultimi mesi, è l'embargo militare, la richiesta agli organismi internazionali e ai singoli stati di cessare la fornitura di armi e lo scambio sia di attrezzature militari, sia di sistemi d'arma, ma anche per quanto riguarda il sistema di controllo securitario, in cui Israele sicuramente eccelle, e quindi chiediamo che vengano revocati gli accordi e vengano bloccate le convenzioni che si fa con Israele. L'Italia ha purtroppo una lunga tradizione di commercio anche militare con Israele, siamo al quarto posto in Europa per quanto riguarda gli scambi solamente nel settore dei sistemi d'arma. L'Europa si sta comportando malissimo perché, oltre a, ad esempio, ultimamente ad avere utilizzato droni israeliani che sono stati già testati sul campo, cioè sulla pelle dei palestinesi, e quindi sarebbero anche da evitare anche per motivi di questo tipo, Israele ha vinto la gara per il controllo delle frontiere da parte di Frontex, e quindi l'Europa sta affittando a carissimo prezzo alcuni droni, di cui alcuni esemplari sono anche dislocati in Italia. E tra l'altro la nostra italiana, la ditta italiana Leonardo, è stata esclusa dalla gara con, pare, anche qualche forma un po' artificiosa, ma a noi non dispiace che Leonardo perda le gare, però ci dispiace molto che l'Unione Europea finanzi Israele. Anche attraverso altre modalità Israele viene finanziata nel settore militare dall'Europa e anche in parte dall'Italia, ad esempio con il programma Horizon 2020 si è concluso, e Horizon sarebbe un programma europeo per finanziare le piccole e medie imprese per la ricerca, escludendo le spese militari. Però è stato immediatamente trovato il modo per aggirare questa clausola parlando di doppio uso, di double use, per cui tante volte i fondi sono utilizzati apparentemente per scopi civili, ma in realtà per scopi militari. Quindi noi monitoriamo questo tipo di attività, lo denunciamo, chiediamo all'Unione Europea e all'Italia di uniformarsi al diritto internazionale, che prevede l'esclusione di forniture d'armi ai paesi in conflitto. Quindi non solo Israele, ma anche tanti altri, purtroppo. Grazie Raffaele. Mm-hmm. Quali sono le altre campagne? I nostri ascoltatori, esatto, sanno quelle... che per esempio noi facciamo anche, certo, azioni contro diverse ditte, se esatto, tu vuoi spiegarcelo. Ecco, naturalmente noi continuiamo le campagne contro i prodotti ortofrutticoli, per cui quelli che adesso si trovano anche purtroppo spesso nei supermercati e sono anche abbastanza evidenti, talvolta meno perché utilizzano, magari vengono lavorati in Europa e quindi vengono commercializzati con altri numeri piuttosto che quelli della importazione da Israele, però sono facilmente identificabili. Ma in particolare noi stiamo concentrando l'attenzione su alcune ditte o società complici di Israele, perché traggono profitto dall'occupazione, in particolare due. Una è AXA, che è una multinazionale con sede in Francia nelle assicurazioni, alla quale contestiamo la partecipazione azionaria in alcune industrie militari israeliane e nelle banche in cinque banche israeliane, che sono quelle che forniscono il credito per l'esportazione. E a fine giugno ci sarà una iniziativa internazionale contro AXA, a cui chiediamo di partecipare tutti quelli che si sentono di farlo, e potrete trovare le istruzioni sul nostro sito BDS Italia al momento opportuno. Idem stiamo facendo nei confronti della ditta Puma è quella che fornisce attrezzature sportive, in particolare fornisce ed sponsor tecnico dell'Associazione Israeliana di Calcio, perché tra le altre nelle sue fila accoglie anche alcune squadre che sono situate nei territori palestinesi occupati, questo contro naturalmente il diritto internazionale. Per cui chiediamo a Puma di cessare questa collaborazione. Puma era subentrata ad Adidas in questa sponsorizzazione tecnica e ci sembra assolutamente ingiusto e illogico che venga continuata. Quindi anche qui organizziamo delle giornate di protesta contro Puma, mandando lettere, facendo delle manifestazioni davanti ai negozi, sensibilizzando più possibile questa ditta. Naturalmente si concentrano le iniziative su singole aziende, anche perché serva tutte le altre di monito, in maniera che uno sappia che quando investe in Israele non gli conviene né dal punto di vista dell'immagine, alla quale tutti tengono tantissimo, né dal punto di vista commerciale, perché calano comunque gli acquirenti. Ecco, questi sono alcuni esempi, poi se volete anche altri potete andare tranquillamente sul sito di BDS Italia e ne trovate anche campagne locali, occasionali per eventi particolari o per iniziative che hanno un interesse più localistico. Bene, grazie Raffaele. Naturalmente questi successi anche nei confronti di Microsoft, per esempio, no? Ad esempio, certo. Il ritiro di Adidas e così sì. Via, non piace naturalmente né alle aziende, ma soprattutto la campagna, come hai già detto, non piace per niente ad Israele. Puoi spiegare ai nostri ascoltatori quali sono invece le campagne, chiamiamo, di diffamazione, addirittura richieste di divieto del BDS, a livello sia nazionale che internazionale. Esatto, è in corso da tempo una campagna di diffamazione nei confronti sia degli attivisti del BDS e dei difensori dei diritti dei palestinesi, ma più in generale contro la lotta dei palestinesi, per cui qualunque manifestazione che sia targata pro-Palestina ormai viene considerata come un obiettivo. Voi non so se tutti sanno che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, anche dal Consiglio dei Ministri italiani, dopo che lo hanno approvato altri, come ad esempio il Parlamento tedesco, il Parlamento austriaco, l'adozione della definizione di eguaglianza fra antisemitismo e antisionismo. Questa distinzione, che è assolutamente netta e che è ovvia, non è solamente semantica, viene confusa e viene volutamente commercializzata come se fosse veicolata come se fosse la stessa cosa. La definizione di antisemitismo, così come è stata definita, è stata messa a punto dalla Unione Internazionale di Difesa dell'Olocausto, è assolutamente inapplicabile per quello che riguarda l'antisemitismo, perché non c'è assolutamente nessuna relazione tra le due cose. Lo stesso estensore della definizione, che era un professore americano di cui adesso mi sfugge il nome, ma che lo trovo, aveva messo a punto questa definizione di antisemitismo per poter catalogare quelle iniziative che erano considerate effettivamente antisemite e quindi da condannare giustamente. Ma questa cosa in realtà è stata allargata a tutto quello che è il dissenso nei confronti di Israele e la cosa è assolutamente inaccettabile. Purtroppo, un po' per l'ignoranza anche la disattenzione dei nostri politici e anche dell'opinione pubblica, è facile cadere in questo inganno e che noi stiamo assolutamente cercando di contrastare. anche con rapporti con i politici direttamente. Abbiamo già avuto un incontro con un gruppo di parlamentari e porteremo avanti questa lotta, perché viene volutamente così anacquata e confusa l'opinione pubblica, perché sotto la voce antisemitismo rientri anche qualunque critica nei confronti di Israele. E quindi noi stiamo portando avanti questa iniziativa di chiarimento e di pulizia rispetto anche all'opinione pubblica, e ci opponiamo assolutamente. Noi siamo i primi a essere contro ogni forma di razzismo, contro ogni forma di discriminazione, e quindi le accuse di antisemitismo ci offendono molto profondamente, perché sono false, perché sono strumentali e servono solamente a confondere l'opinione pubblica. Grazie Raffaele, e grazie di tutte queste spiegazioni. Se vuoi, alla fine della nostra trasmissione, fare un appello ai nostri ascoltatori. Ma sì, io farei un appello ai toscani, visto che voi siete soprattutto in quella zona, di costituire o di ampliare la rete sia degli spazi liberi dell'apartheid, ma anche di creare o comunque rafforzare il comitato locale del BDS, che vive sulle spalle di pochissimi attivisti, per cui è un'attività che tutti possono fare anche senza sforzi fisici eccessivi, perché si può fare comodamente dal proprio computer. E quindi chiediamo anche di costituire un gruppo di sostegno del BDS e di rafforzare quelli esistenti. Ci potete contattare direttamente sul sito, dove c'è la nostra mail, e mandare un messaggio, noi vi rispondiamo e poi vi contattiamo, sentiamo quello che è possibile fare, perché è ora che i diritti dei palestinesi siano riconosciuti insieme a tutti quelli degli altri popoli. Grazie tante, Raffaele, e come dicevano già gli antichi romani, vivat, crescat e floriat BDS. Grazie di nuovo. Ciao. Va bene, ciao. Grazie a voi. Ringraziamo Raffaele Spiga per questa carrellata di informazioni veramente interessante e per il suo invito all'attivismo per il BDS. Invito che giriamo volentieri anche a tutti i nostri ascoltatori. Sulle pagine di Buongiorno Palestina di oggi potrete trovare tante informazioni in merito al BDS, link a video e a Facebook che vi invitiamo a consultare, perché, come ha detto Raffaele, tutti si può fare qualcosa. Con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle ore 18. Inshallah. صفقة جان.